Un libro non è mai cosa da prendersi a cuor leggero. Il nome gli deriva dal latino librum, che designava liber. Quella designava liber. Ma liber. Secondo il dizionario del Cortellazzo riferisce librum con la M fra due parentesi, ti dirò, ho accettato questa lezione. Designava, dice il dizionario del Cortellazzo, quella parte di scorza dell'albero sulla quale da un certo momento in poi qualcuno cominciò a fare dei segni. Parte di scorza dell'albero, insomma. Come spiega Guglielmo Ferrero, lo spiega in un'opera del 1893, i simboli in rapporto alla storia e filosofia del diritto, alla psicologia e alla sociologia, un libretto che è stato ristampato pochi mesi fa dalle Edizioni Scientifiche Italiane, e hanno fatto bene a farlo. Questo libro ha finito con l'assumere un'importanza simbolica notevole, quasi ovunque sia apparso, in una forma o nell'altra. Fuyi, l'uomo santo dell'antica Cina, avrebbe visto le leggi per il governo del popolo sul dorso di un serpente alato, forma di libro piuttosto curiosa. Nel Corano nessuno degli inviati di Dio è senza libro. San Giovanni Battista, sia lui che Gesù Cristo, hanno ricevuto un libro direttamente da Dio, ed è proprio questo libro in quanto tale che testimonia della legittimità della loro missione nel mondo. Mosè ha avuto le sue tavole della legge e sulla Bibbia, d'altronde, si è giurato e si continua a giurare un po' ovunque. Si comprende da ciò come la scrittura sia stata per lungo tempo appannaggio di pochi e come per questi pochi abbia costituito un capitale non indifferente. Che le valorizzazioni in positivo siano durate a lungo nell'immaginario popolare è anche confermato dagli andirivieni del libro nel simbolo di alcuni partiti socialisti dal 1892 in avanti. D'accordo il sol dell'avvenire, d'accordo quasi la falce e il martello, ma senza libro della falce e del martello non si saprebbe che farne, e senza libro soprattutto non ci sarebbe nessuno a dirci che quel sole che si aspettava tanto trepidamente per l'avvenire è finalmente arrivato. Così gli intellettuali diciamo che si sono garantiti vitto e alloggio. Ferrero è morto all'estero nel 1942 perché antifascista intransigente, era stato costretto all'esilio, ma era nato a Portici nel 1871 e su Napoli e dintorni, dunque la sapeva lunga. Ferrero racconta allora che sul finire del secolo scorso i frati di San Severino e Sossio, che erano due santi, non uno solo, due santi accomunati per ragioni logistiche, no? Come spesso capita, con due piccioni fai una fava, risparmi un'abbazia. Due fave fai un piccione, risparmi un'abbazia. Usavano acutamente questi frati della scrittura per soluzioni, diciamo, terapeutiche. Ai malati che si presentavano loro consegnavano delle pagine su cui erano state impresse le lettere I, C, T, V, I, F, O, P, N, P, C, P e P. Queste lettere erano le iniziali delle parole che componevano una formula. In concezione tua virgo immaculata fuisti, ora pro nobis patrem cuius filium peperisti. Il malato che avesse voluto guarire, avrebbe dovuto sminuzzare la pagina in questione giorno per giorno, lettera per lettera, ed inghiottire il primo giorno la I, il secondo la C, poi la T e così via, con mezzo bicchiere d'acqua o a mollo nella zuppa per chi avesse avuto difficoltà ad inghiottire. È uno di quei rari casi in cui la cultura, ricondotta alle sue matrici materiali dopo una lunga sequela di investiture simboliche, diciamo che fa bene. Chi al giorno d'oggi contribuisce a disincrostare il libro di certe sue valenze simboliche per ripresentarcelo in tutto il suo aspetto materiale, d'altronde è per l'appunto Tempo Medico, giornale che alla terapia dovrebbe, per così dire, aver dedicato la propria esistenza. Da un paio di mesi, infatti, nella rubrica delle recensioni librarie di Tempo Medico, insieme ai dati essenziali come, che so, autore, titolo, casa editrice e prezzo, un breve commento ed un sintetico giudizio, pubblica il peso del libro in questione, in grammi. È così che dobbiamo allora tener conto del fatto che i materiali e le tecniche di rianimazione preospedaliera, cui mi auguro che segua presto i materiali e le tecniche di rianimazione postospedaliera di Fontanella e altri, pesa 750 grammi. La gastroenterologia di Rambeau e Bunick invece non supera i 450 grammi, mentre bisognerà pensarci bene prima di comprarsi il dolore acuto, diagnosi differenziale topografica di Stanley Weiner, perché, per fare onore al suo titolo, pesa la bellezza di 2150 grammi. Così implicitamente ci viene suggerito un criterio che avrebbe sconvolto dalle fondamenta la storia del mondo e dei suoi potenti. Meno morti sicuramente e meno morti in vano, di deferenza. La nostra storia non sarebbe stata più la stessa e i chierici che l'hanno officiata si sarebbero forse confusi nella modestia generale. A cominciare da Mosè, che anche in considerazione del luogo in cui si trovava, scomodo, con sentieri scoscesi, dopo aver dato un'occhiata alle tavole, avrebbe senz'altro chiesto se non gliene potevano dare un'edizione tascabile.